Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Paola Soriga, autrice di Dove finisce Roma, pubblicato da Einaudi. Si tratta di un'opera prima di una giovane scrittrice trentenne che ha deciso di ambientare la sua storia durante il periodo della Resistenza. In realtà la Resistenza fa da sfondo alla storia di una ragazzina, Ida, che dodicenne parte, lascia la Sardegna e raggiunge la sorella a Roma e qui diventerà staffetta partigiana con tutto quello che ne consegue. Innanzitutto, Paola, come mai hai deciso di ambientare una storia durante la Resistenza a Roma, tu che sei così giovane e che inevitabilmente di quel periodo magari avrai sentito solo i racconti? Questa è una cosa che in realtà io ancora non mi spiego bene, nel senso che non riesco a ricostruire esattamente quali siano state le idee, le suggestioni che mi hanno portato ad ambientare la storia in questo periodo storico. Quello che so, che ricordo invece con precisione, è che io sono partita più che altro dai luoghi. Questo romanzo è ambientato appunto a Roma, ma in particolare in alcuni quartieri periferici di Roma, che sono Celle, il Quadraro, che sono delle borgate che sono nate proprio negli anni 30, quindi probabilmente quest'idea forse è stata un po' il motore che poi mi ha portato a un'ambientazione in quel periodo storico. E da qui appunto il titolo Dove finisce Roma? Esattamente, un titolo che rimanda proprio a questo concetto di periferia, di limite della città, che è un po' anche una cosa mutevole, no? Stiamo parlando di quartieri che appunto in quegli anni erano il limite ultimo della città, ma che già non lo sono più, ci sono ormai dietro altri 4, 5 o 6 quartieri, quindi anche questo era un aspetto che mi interessava. Una scrittrice giovane che esordisce con un libro sulla Resistenza, questo ha scatenato delle critiche da parte di chi la Resistenza l'ha vissuto o dai grandi vecchi della letteratura? Ha scatenato prima di tutto molto stupore, e questa è una cosa che io non mi aspettavo. E poi in realtà da parte di chi la Resistenza l'ha vissuta, no, non ho avuto critiche, anzi ho avuto dei complimenti anche molto belli. Mi riferisco in particolare a due persone che hanno letto questo libro. Una è Marisa Ombra, che è in questo momento la vicepresidente nazionale dell'AMPI, che ha scritto anche lei un libro uscito da poco per Einaudi che si intitola Libere Sempre, che appunto era rimasta in particolar modo colpita dalla ricostruzione di quel periodo, per quanto lei abbia vissuto una resistenza diversa, perché l'ha fatta sulle Langhe, quindi non in città. E poi l'altra invece era Miriam Maffai, che ha letto questo libro poco prima che uscisse, purtroppo anche poco prima di morire, e però lei aveva avuto delle parole molto belle, molto per me molto importanti, e insomma all'interno del suo giudizio c'era anche il fatto che secondo lei questa ambientazione era ricostruita bene, e quindi insomma ovviamente per me questa è una gioia molto grande. Un'ambientazione ricostruita sicuramente bene, anche con i particolari, con tante cose. Io ho trovato però soprattutto che questo libro non parli solo di resistenza. La resistenza è lo sfondo ad una storia di una ragazzina che cresce e che vive le sue prime emozioni, i suoi innamoramenti, le sue amicizie forti come possono essere quelle dell'adolescenza. Tu che cosa volevi raccontare? Questo. Volevo raccontare una ragazzina che cresce in un contesto storico e culturale in cui le ragazzine subivano dei trattamenti un po' diversi da quelli riservati ai loro coetanei maschi. Mi interessava raccontare in qualche modo la sua formazione amorosa. È una ragazzina molto istintiva che vive le cose appunto senza pensarci tanto, e questo le provoca ovviamente anche delle cose negative, e quel sentimento di amicizia così importante durante l'adolescenza. Mi viene in mente una frase che c'è in questo libro che ho citato prima di Marisa Ombra, che in realtà ho letto dopo aver scritto il mio, che è una lettera a una ragazzina di oggi, e a un certo punto lei dice: ti dirò una cosa che ti potrà sorprendere, avere 14 anni oggi non è poi così diverso da averli avuti allora. Allora non so, questa è una cosa che è bello questo pensiero. pensiero, e quindi a maggior ragione rispondo che sì, che quello che volevo raccontare era proprio la storia di una formazione affettiva, di una ricerca di un proprio spazio, di una propria libertà dentro il mondo. Raccontando molto brevemente la trama, Ida è una ragazzina che vive in Sardegna, a 12 anni poi va a Roma seguendo la sorella e il marito della sorella, e qui vive la sua adolescenza finendo appunto per diventare staffetta partigiana. Ma perché questa sua adesione ai partigiani, insomma, c'è un perché o avviene un po' per caso? Per caso non direi, avviene magari per delle ragioni un po' istintive, quello che dicevo prima, che è un po' un aspetto del carattere di questa ragazzina. Come dire, non è una che ha un retroterra ideologico, viene anche da una famiglia, insomma stiamo parlando di anni in cui il fascismo era una cosa talmente diffusa, no? Che era persino gli intellettuali ci hanno messo del tempo a capire di che cosa si trattava esattamente, però che si trova poi a contatto con delle persone che un po' la fanno riflettere su questa. Ci sono due aspetti in particolare che la spingono, secondo me, più di altri. Uno è la questione appunto della libertà, che lei sente molto, e l'altro è il discorso del razzismo, che ugualmente lei sente molto. Sono due elementi, per non parlare del maschilismo, dell'ideologia fascista, che lei non riesce proprio a mandar giù. C'è una frase che io riporto nel libro, che in realtà ho tra virgolette rubato a uno spettacolo teatrale che ho visto a Roma un po' di tempo fa, che dice: l'antifascismo era per natura, per senso di giustizia e di solidarietà. Ecco, questo è un po' proprio quello che penso che sia alla base delle sue decisioni, ed è quello anche che mi interessava raccontare. Infatti i partigiani, insomma, all'epoca in molti erano proprio giovani, giovanissimi adolescenti, perché in loro c'era la voglia di andare contro qualcosa, come è tipico degli adolescenti. Quindi in questo senso ti sei ispirata anche, non so, a racconti dei tuoi nonni o a libri che hai letto per raccontare questa voglia di aderire alla resistenza? Più che altro a dei libri che ho letto, sia i romanzi, ma anche raccolte di memorie, interviste, lettere, questo tipo di cose. Racconti dei miei nonni fino a un certo punto, perché in realtà in Sardegna la resistenza non c'è stata, come nel sud Italia in generale, no? È un percorso storico leggermente diverso, però poi, insomma, sì, sono stati tanti gli elementi che mi hanno portato a vedere questo. In generale, sì, questa cosa è vera, molto spesso erano dei ragazzi molto giovani, e questo è anche un dato storico spiegabile, no? C'è una generazione che, al contrario di quelli un po' più grandi di loro, che erano proprio nati e cresciuti dentro la dittatura fascista, tanto che quasi non si rendevano conto del periodo in cui vivevano, quelli un po' più piccoli, in particolare le ragazze un po' più piccole, l'hanno vissuta, secondo me, è una cosa che dicono gli storici, insomma, in un modo un po' più forte, perché poi appunto andava anche a coincidere il discorso sulla libertà collettiva e quello sulla libertà personale, che quindi significava anche la ribellione nei confronti dei genitori, eccetera. Io ho trovato molto bello nel tuo libro la scrittura, è una scrittura molto poetica ma non macchinosa, insomma si legge con tranquillità. Ecco, l'unica cosa è che forse consiglierei di leggerlo un po' tutti insieme, non a pezzettini, perché a volte si rischia di perdere magari un po' il filo. Come affronti tu la tua scrittura? Ceselli parola per parola, vai di getto e poi correggi? Che rapporto hai con questo tipo di scrittura? Vado di getto poco, correggo molto. Ho riscritto veramente queste poche pagine moltissime volte, forse perché appunto in realtà è la prima esperienza che faccio di scrittura in prosa, di una scrittura così lunga e così complessa come quella di un romanzo. Vengo da anni di scrittura poetica, per cui è chiaro che il processo di scrittura è molto diverso. Si è abituato a lavorare su un numero ristretto di parole, che appunto magari da un'idea iniziale poi però riscrivi tantissime volte. Ecco, io col romanzo ho fatto un po' una via di mezzo, secondo me, fra queste due cose. Grazie a Paola Soriga, opera prima con Dove finisce Roma, pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.